C'è chi lo definisce un test sgretolato di cui è difficile valutare la credibilità tra quelle che lui chiama precedenti dichiarazioni rese in funzione della sua difesa e il presidente della Corte Michele Leoni, che a più riprese ha sottolineato come in passato da imputato si sia avvalso della facoltà di mentire. Nel secondo giorno, sesta udienza in cui l'ex NAR Luigi Ciavardini viene sentito davanti alla Corte d'Assise di Bologna, che sta processando Gilberto Cavallini, accusato di concorso nella strage del 2 agosto 1980, sono stati molteplici passaggi contestati. Gli passaggi che non quadrano, a iniziare da un nome che è tornato anche nell'udienza dello scorso 9 maggio, Calderoni, definito il medico che, in base alla versione resa una settimana fa, si occupò di una ferita al volto che Ciavardini si procurò partecipando il 23 maggio 1980 all'assalto al liceo romano Giulio Cesare. Il nome è lo stesso che tra il 1986 e il 1999 Ciavardini cita più volte, attribuendogli molteplici ruoli, compreso quello del fornitore di documenti falsi, ed è sempre quello che in precedenza aveva associato a Gilberto Cavallini. Nell'udienza del 18 maggio invece diventa Giorgio Vale, neofascista che con un passato in terza posizione, poi il transito verso i NAR, e che è stato assassinato il 5 maggio 1982 nel conflitto a fuoco che seguì l'assalto all'appartamento di via Decimo Mure a Roma. Oggi Vale, già coinvolto e assolto nei depistaggi per la strage di Bologna, è il vero riferimento di Luigi Ciavardini. Lui lo nasconde dopo il ferimento, sempre lui lo accompagna a Milano per trovare un riparo in un appartamento nel capoluogo lombardo ed è lui che gli dà la patente falsa intestata a Flavio Caggiura, che utilizza nel corso della latitanza a ridosso dell'esplosione che a Bologna fece 85 morti e oltre 200 feriti. Vale lo raggiunge a Palermo nei due giorni trascorsi, protetto da Francesco Mangiameli, il leader siciliano di terza posizione, che appena dopo ospita anche Francesca Mambro e Valerio Fioravati in una località nei pressi di Mazara del Vallo, Trefontane. Che ci facesse in quel periodo sull'isola, Ciavardini non lo spiega con chiarezza. Certo, in quel periodo è latitante e da Fuggiasco fa il pendolare da Treviso a Palermo e ritorno per raggiungere Covi sicuri, ma nonostante sia ricercato dopo l'assalto al liceo Giulio Cesare, durante il quale viene ammazzato l'agente di polizia Francesco Evangelista, noto con il soprannome di Serpico, in quei giorni siciliani Luigi Ciavardini ha modo di andare in spiaggia a Mondello, fare un tuffo e consumare un pasto al ristorante, sempre con Vale. Perché non si è mai pentito dopo l'arresto come altri, rivelando quello che accadeva nel mondo definito letteralmente delle trame nere, gli chiede il presidente Leoni. Ciavardini inizia un discorso troncato dal presidente, che rileva che non solo non si è pentito, ma non ha rivelato nemmeno come sono andati i fatti. Dal canto suo, Giuseppe Giampaolo, l'avvocato di parte civile che nel suo controesame ha definito Ciavardini Cavallini dipendente, gli chiede dei rapporti che alcuni neofascisti avevano con realtà che non riguardavano il mondo dello spontaneismo armato, come la P2, con la quale il nero Paolo Aleandri era tramite, che ha riguardato, in base alle parole di alcuni pentiti, sia Gilberto Cavallini che Valerio Fioravanti. Il nostro agire, qualcuno l'ha sfruttato dopo, qualcuno che con noi non aveva nulla a che vedere, ha risposto Ciavardini, pur insistendo sulla propria estraneità a quei mondi. Esisteva un piano eversivo e in cosa consisteva quando lo spontaneismo diventa armato, gli ha chiesto ancora l'avvocato Giampaolo. Non era un piano eversivo il nostro, è stato un crescendo di eventi che ci ha portati a convivere con l'illegalità, ma non ci siamo mossi in base ad una visione o un'analisi politica, ha risposto Ciavardini. Dopo aver risposto alle domande dei difensori di Gilberto Cavallini, gli avvocati Daniele Bordone ed Alessandro Pellegrini, si rimane in attesa della deposizione degli altri due neofascisti condannati in via definitiva per la strage alla stazione di Bologna, Francesca Mambro e Valerio Fioravanti, che saranno sentiti la settimana prossima, tra il 23 e il 25 maggio.